Il Falco e il Gabbiano presenta. Chuck si vola. Di Enrico Ruggeri. Amici miei. 18 aprile 2013, il Parlamento italiano è riunito in seduta comune a Montecitorio, si sta votando per eleggere il Presidente della Repubblica. È il primo scrutinio, il candidato più probabile è Franco Marini, però lo sapete, all'inizio ci sono i candidati di bandiera, quelli che poi vengono spazzati via, insomma è un passaggio politico difficile, alla fine verrà eletto Giorgio Napolitano per la seconda volta, ma la cosa importante è che in quel primo scrutinio, tra i voti dispersi, ce ne sono alcuni che fanno sorridere, gente che vota per Valeria Marini o addirittura anche oltre, ma le telecamere riprendono la chiama del presidente della Camera, Laura Boldrini. Ecco cosa dice la Boldrini. Franco Marini, Marini, Gambi, Raffaello Mascetti, Stefano Rodotà. Raffaello Mascetti, evidentemente c'è stato qualche onorevole spiritoso che ha votato nel segreto dell'urna per la carica di Presidente della Repubblica il nostro protagonista di oggi, Lello Mascetti per gli amici, per tutti, il Conte Mascetti, un uomo che è entrato nella storia d'Italia non per una carica politica ma per altri motivi, forse il primo è linguistico perché è lui l'inventore di quel gioco passato ai posteri come la supercazzola, una parola che ormai è entrata nel dizionario Zingarelli nel 2016, è una frase precisa, parola o frase senza senso pronunciata per sbalordire, per confondere l'interlocutore, insomma questo. Ogni minuto è prezioso, mi scusi, dei tre telefoni qual è come se fosse terapia tapioca che ha aperto la supercazzola? Dei tre? Non mi ha capito bene, volevo dire dei tre telefoni qual è quello col prefisso? Ah, quello lì. Grazie. Sorella, col terapia tapioca come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra? No, Pazienza. L'impatto della figura del Conte Mascetti poi peraltro va ben al di là della creazione di un neologismo, perché la sua è una storia emblematica, una parabola umana, peraltro profondamente tragica, perché è un uomo che da un lato vive la vita con grande spirito, affronta le difficoltà con sfacciataggine, con cinismo, sfiora la cattiveria, però peraltro insomma è un uomo che potremmo definire secondo i parametri di oggi un fallito, e peraltro è uno che non può dare la colpa ad altri per quello che gli capita, è lui l'unico responsabile delle sue disgrazie e lui lo sa, porta con dignità sulle spalle le sue debolezze, rivendica il diritto all'errore, alla irresponsabilità, a differenza del detto che dice chi a causa del suo mal pianga se stesso, lui non piange quasi mai, non recrimina, lui dirà è così importante nella vita diventare qualcuno, e la sua storia peraltro è soprattutto una storia di amicizia tra maschi con vecchi amici che sono diversi tra di loro, sono diversi soprattutto da lui, ma che condividono il suo modo di affrontare l'esistenza senza mai prenderla sul serio. E ricostruire la vita del Conte Mascetti non è semplice, anche se di lui sappiamo molto spesso proprio dal racconto dei suoi amici storici. Intanto conosciamo le origini di un titolo nobiliare che lui porta con orgoglio e diciamo anche con un pizzico di snobismo verso la plebe. Raffaello Mascetti, detto Lello, nasce a Firenze, pare nel 1922, anche se non sappiamo il giorno e il mese. Le tracce dei suoi antenati, che sono appartenenti a un'antica schiatta della nobiltà toscana, le tracce sono presenti nelle cronache della città fin dal 1191. Fu l'anno in cui l'esercito di crociati guidati da Riccardo Cuor di Leone sconfisse i musulmani del feroce Saladino ad Arsuf. Altre fonti parlano di un'origine spagnola del casato, sarebbero i nobili Mascetti dell'antica Catalogna. Insomma, quale che sia la vera radice del conte, di sicuro sappiamo che la sua è una famiglia ricchissima, di una ricchezza che passa di generazione in generazione, che cresce a ogni passaggio, possedimenti, immobili, denaro. È una situazione economica che permette al giovane Raffaello di vivere la sua fanciullezza nel lusso più totale. Lui cresce con istitutori privati, non ha idea di cosa sia il lavoro, è una caratteristica che lui non abbandonerà mai. Lui si vantava di non avere mai lavorato un solo minuto nella sua vita, non lavorerà neanche quando sarà ormai riuscito a sperperare ogni singolo bene della sua famiglia. La conta per pagarmi? Ma io sono ospite. Va bene, ospite di tutti. La solita colletta. Colletta? Beh, sì. Diciamo sottoscrizione, se ti suona meglio. Non voglio elemosine da nessuno, capito? Io fino a 21 anni mi sono fatto vestire e spogliare dal cameriere. Il conte Lello Mascetti si è fatto un viaggio di nozze di 3 anni e mezzo con moglie e un orso di 2 metri e un guinzaglio. 18 anni fa il conte Lello Mascetti avrebbe invitato non solo una massa di merdosi come voi, ma anche tutte le operaie che stanno lì sotto, e se il padrone della fabbrica non voleva, beh, mi comperavo la fabbrica. Chiaro? E adesso volete fare la colletta. Stronzo. Io da voi non accetto neanche una crosta di formaggio. Vi aspetto in macchina, buon appetito. Sì, è tutto vero. Nei suoi anni della giovinezza la vita del conte è stata votata allo sperpero dell'immenso patrimonio di famiglia, donne, auto, stravaganze, gioco d'azzardo. E poi, finito il suo denaro, riesce a azzerare anche tutti i beni della moglie Alice, che anche lei arrivava da un'ottima famiglia. Con lei ha una figlia, Mela. Ovviamente il nostro protagonista non è per niente uno tutto casa e famiglia. Quando lo incontriamo per la prima volta, lui ha addirittura spedito lontano da Firenze la famiglia nel paese natale della moglie, Gavinana, un borgo montano vicino a Pistoia. Ha piazzato moglie e figlia a scrocco da un conoscente, tale Batacchi, e con gli amici lui le definisce le villeggianti, anche se in realtà la loro situazione è drammatica, molto lontana dal concetto di vacanza. Gli telefonerà, gli dirà: ha nevicato, Lello, gli dirà insomma quanto è in difficoltà, quanto fa fatica. Un amico del conte, che conosceremo meglio, il barista Guido Necchi, racconta la loro condizione. Sono il conte Mascetti. Guardi, lì ci deve essere mia moglie, me la passa per favore. Le chiamava le villeggianti, moglie e figlia, perché a maggio le aveva spedite nel paese natale della moglie e ancora non aveva trovato i soldi per schiodarle da lassù. Ha nevicato, Lello, quasi mezzo metro. Ma come, mi fai venire l'infarto per dirmi che ha nevicato? Bene se ha nevicato, così vi divertite, no? Te e la bimba. Sì. Fatelo buono con la pipa. Ma come si fa con le scarpe, con tutto? Che c'entrano le scarpe ora? Ma se ci sa solo quelle da tennis di quest'estate. Ma forse il male delle scarpe gli è tutto, Lello. Anche il povero Batacchi, quanto ci può tenere gratis? Vabbè, per 2 mesi, che vuoi che sia? Lello, è da luglio che non vede una lira. Capirai, il Batacchi, una stanza con l'uso di cucina. Ma chi l'usa più la cucina, Lello? Io non ti voglio affliggere, ma anche la bimba non ce la fa proprio più. Su io, stai tranquilla che sistemo tutto, non ti preoccupare. Insomma, lo abbiamo capito, e Mascetti non è uno stinco di santo, direi uno sciagurato. Nonostante la sua condizione, insiste nel non lavorare, se escludiamo una occasionale attività di vendita di enciclopedie che di solito appioppa a degli ingenui grazie al suo cinismo, al suo savoir-faire. La famiglia è in vacanza, se così possiamo dire, e lui, Raffaello, sta vivendo una relazione con una ragazza molto giovane, la Titti. Lei è figlia di un colonnello dell'esercito, coetaneo del Mascetti, rapporto ovviamente complicato con la Titti, che rimane a dormire col conte, che non ha fissa dimora. Viene ospitata a turno questa coppia dagli amici d'infanzia, il Necchi, che abbiamo già citato, poi Giorgio Perozzi, il giornalista, che è un amico separato che vive da solo, a disposizione una camera in più quando non arriva il figlio del Perozzi. Mascetti non è che sia cattivo, è soltanto che non riesce, anzi non vuole vincere le sue debolezze. Per esempio, è consapevole che la storia con Titti, insomma, è un po' ai limiti. Capisce che questa relazione non può durare. Perché vedi, tu sei giovane e hai il diritto di essere incosciente. Ma io no. Capisci? Sì, lo so, ti sto rovinando. Io non posso pretendere di ipotecare il tuo avvenire. Bisogna saper guardare in faccia la realtà. È stato un sogno molto bello e basta. Tu hai 18 anni, io ne ho 52. Non è per quei 34 anni di differenza che poi sarebbero il meno. È che il nostro amore non può avere nessun avvenire. Coraggio, Titti. È meglio che ci togliamo il coltello dalla piaga. Non ci pensiamo più. Ma sì, è l'unica. Addio, Titti. Addio, merdaiolo. Ci si vede domani al solito posto. A mezzogiorno. No, alla mezza. A mezzogiorno un pignoramento. Va bene. A un certo punto Mascetti trova una soluzione per sistemare moglie e figlia, naturalmente sempre con l'aiuto dei suoi amici, e le sistema in una specie di scantinato adibito ad appartamento, e gli amici pagano 2/3 dell'affitto, situazione al limite del vivibile. La descriverà con precisa, con chirurgica crudeltà il figlio 12enne del Perozzi, che viene tenuto ospite a pagamento dal Mascetti. Lui dice di essere conte, ma invece sta in un seminterrato alla giapponese, tutto di accio e umido, senza telefono, senza acqua calda, col cesso coi piedoni e un fornelletto dove la moglie ci ha cucinato una frittatina di 2 uova che abbiamo mangiato in 3, più un rinforzino, come lo chiama lui, di 9 olive di numero, mezzetto di stracchino e 1/4 di vino sfuso. Tutto, vitto e alloggio, per 150.000 lire, che mi pare proprio una rapina, anche se lui, per fare il conte, chiama Castello un aggeggio di 3 locali. Loculi. Di 3 loculi, dove mi toccherà dormire assieme alla moglie, una donnetta secca e rifinita come il suo nome, Alice. E la figlia Mela, che per fortuna non dà noia, perché è un'handicappata incapace di parlare e camminare alla sua età. Io dico che codesto conte o è un gran bugiardo o si è ridotto proprio come un disperato. Bravo, 10 lode, gli dice il Mascetti, e poi teatralmente scoppia a piangere. La vita del Mascetti, nonostante questo suo atteggiamento pomposo che vuole darsi dignità, la vita non è semplice, l'avete capito, l'esistenza che lui ha condotto lo ha portato in una situazione che il giovane, il crudele bambino Lucianino ha descritto con questa precisione terribile. E per campare si arrangia, prova a vendere questa enciclopedia britannica, è sempre a scrocco, arriva perfino a cedere l'ingessatura di una gamba rotta, comprensiva di perizia medica uno strozzino. E insomma, per sua fortuna ci sono questi suoi amici, che non sono molti, ma sono di lunga data. Abbiamo detto il barista Necchi, il giornalista Perozzi, e poi c'è l'architetto Rambaldo Melandri, compagno di scuola e poi di Naia, di entrambi, e loro provano a affrontare la vita col loro umorismo, con i loro scherzi al limite della crudeltà verso chiunque capiti loro a tiro. Il loro cavallo di battaglia sono quelle che chiamano le zingarate. È difficile spiegare cosa siano esattamente, hanno a che fare con la voglia di allontanarsi dal quotidiano, con l'improvvisazione, con il girovagare senza meta. Così spiega le zingarate il Perozzi. Oh, ma che fai? Dove vai? Ho svoltato a sinistra. E che c'è a sinistra? Sono la sega, lo zingaro quando li gira, gira. Ecco, questo è essere zingari. Questa è la zingarata. Una partenza senza meta e senza scopi. Un'evasione senza programmi che può durare 1 giorno, 2 o 1 settimana. Una volta, mi ricordo, durò 20 giorni, salvo complicazioni. Quella zingarata che ricorda il Perozzi non è solo una delle tante, in qualche modo rimarrà nella memoria del gruppo come un momento storico, perché permetterà agli zingari, agli amici, di incontrare una persona che da quel giorno in poi sarà a tutti gli effetti uno di loro, perché una scorribanda per le campagne toscane finisce con un brutto incidente, con un ricovero in una clinica a Pescia, in provincia di Pistoia, governata da un primario molto particolare. parlare il professor Alfeo Sassaroli. E l'incontro con questi zingari, col grande luminare, non è dei migliori all'inizio. Una volta ricoverati, il Perozzi, il Necchi, il Melandri e il nostro Mascetti mettono a ferro e fuoco la clinica a modo loro. Uno dei migliori periodi della nostra vita cominciò così. Tutti e quattro nella stessa stanza, in un'altra città, lontani da moglie, amanti, affari, e con un intero ospedale a disposizione. Ho visto la Madonna. Il cappellano, il cappellano, il cappellano, il cappellano! È la quarta volta che ho mi chiama. Visto la Madonna. Sorella, col terapia tapioco, come se fosse la supercazzola per lei. Voglio il cappellano, il cappellano, il cappellano! Ho visto cappellano. La Madonna. Cappellano! Ho visto la Madonna. Qui c'è gente che soffre per davvero, capite? Chiamo il medico di turno e domani ve ne vedrete col professore. Scappellato? E il professor Sassaroli si dimostra un osso duro, ha ironia e perfidia al livello del gruppo degli amici. Alle loro richieste lui risponde con somministrazione intensiva di clisteri, con inalazioni di aerosol, con analisi invasive. Insomma, tiene testa ai quattro con le loro stesse armi. E la loro amicizia dovrà aspettare ancora, perché c'è un altro particolare un po' intricato. Praticamente l'architetto Melandri si è innamorato della moglie dello stesso Sassaroli. Chuck si vola. Amici miei, stiamo raccontando un nobile decaduto, il conte Raffaello Mascetti, uomo capace di dilapidare un patrimonio ingentissimo nella prima parte della sua vita, poi di dilapidare anche quello della moglie e poi di vivere la seconda parte della sua esistenza con un gruppo di amici molto, molto particolari. E nel nostro racconto siamo arrivati a un momento cruciale, l'incontro del gruppo storico, cioè il Mascetti, il Perozzi, il Melandri e il Necchi, con un quinto elemento, il terribile professor Sassaroli. Si sono conosciuti nella clinica di cui lui è primario, lui ha risposto ai loro dispetti, ai loro scherzi, con angherie, con scherzi altrettanto crudeli, e poi mostra la sua vera natura quando l'architetto Melandri gli confessa di essersi innamorato dell'amore. Arriva al punto di chiedere allo stesso Sassaroli il permesso di portargliela via, e qui c'è il colpo di genio, c'è un monologo meraviglioso, lui che risolve la storia con grande aplomb, lascia a Melandri la moglie, ma gli dice: chi prende Donatella si prende tutto il blocco. E quindi arrivano le due figlie, la governante tedesca, il cane San Bernardo, e poi il dottore che va a trovare ormai la ex moglie che vive con il Melandri, e da lì insomma nasce una vicenda grottesca che farà emergere questa affinità elettiva tra il chirurgo e gli altri, perché a un certo punto lui dice al Melandri: tu una donna così non la reggi, la diagnosi è andiamocene. Lui dice: ma la lascio sola. Lui le dice: bella com'è, troverà qualche altro bischero che la mantiene. E i cinque se ne vanno, e insomma in qualche modo si cementa un'amicizia con uno in più. E le zingarate però per gli amici servono a distrarsi, perché nel caso del Mascetti, cioè del nostro protagonista, sotto questo velo di dignità ma anche di strafottezza c'è questa vita terribile, grama, lui è povero, ha una famiglia alla quale riesce a dare solo sofferenza, ha questa relazione extraconiugale con questa ragazza minorenne Titti, che è anche piuttosto disinvolta, e però non riesce a staccarsi da lei. È tutto vero, non sono balle. Lello Mascetti si è divorato due patrimoni, il suo e quello della moglie. Non gli è rimasto che la fierezza. Difficile aiutarlo. Accetta solo qualche gettone e l'ospitalità, perché l'ospitalità fra signori è di regola. Anzi, lui la interpreta nel modo più ampio. E la relazione con questa Titi gli costa anche un dramma familiare sfiorato, la moglie che scopre la tresca e cerca di uccidersi, di ammazzare tutta la famiglia col gas durante la notte senza riuscirci, poi ci riproverà anni dopo, e questa volta si salveranno tutti per una bolletta non pagata, perché il gas nel frattempo era stato tagliato. Il gruppo degli zingari subisce un colpo terribile verso la fine degli anni 60, il Perozzi, che viene colpito da infarto. Dopo qualche giorno di agonia, dopo una supercazzola al prete che lo sta confessando, che gli sta somministrando l'estrema unzione, il Perozzi muore. Il dolore per questa perdita rinsalda ancora di più l'amicizia tra Lello e gli altri. È un legame particolare perché sono diversi tra loro per estrazione sociale, per cultura, per situazione economica, per situazione sentimentale, però sono uniti dal modo di affrontare la vita. Si scherza su tutti, anche sul dolore, anche sulla morte. Forse i loro scherzi sono un modo per prendere in giro l'esistenza, per tutelarsi di fronte alle tempeste, per essere protagonisti, per reagire ai colpi. Ed eccoci qui, come quattro bischeri, però con questa amicizia che dura da tanto tempo, anche dopo morti, e malgrado tutte le differenze che ci sono fra di noi. Il professor Sassaroli, illustre clinico e chirurgo famoso. Rambaldo Melandri, architetto del comune, trombato, ma per pochi voti, all'assessorato dei lavori pubblici. Guido Necchi, proprietario del bar-ristorante omonimo, e il sottoscritto Conte Raffaello Mascetti, che non so più neanche come definirmi. Tutti uniti da certe regole che non ci siamo mai detti. Il diritto di sfotterci reciprocamente, la voglia di ridere, di divertirsi, e il gusto difficile di non prendersi mai sul serio. E quasi sempre le vittime degli scherzi sono degli sconosciuti che hanno la sola sfortuna di incrociare la strada di questi quattro, di questi cinque, ora quattro. E però a volte la voglia di scherzare diventa un fattore interno. Se uno del gruppo è in difficoltà, gli altri gli si lanciano addosso come gli avvoltoi su un animale ferito. E accade su questioni importanti, quelle sulle quali non bisognerebbe scherzare: tradimenti, amori, addirittura nel caso di Mascetti una gravidanza non desiderata della figlia, e in quell'occasione il conte fa un errore madornale, si confida, chiede aiuto al professor Sassaroli per l'interruzione di gravidanza. Siete degli sciacalli, delle iene che sghignazzate sulle disgrazie altrui, anche quelle di un padre. Ma via, Mascetti, non fare l'isterico, noi si cerca di sdrammatizzare la situazione. Proprio perché ti siamo amici, no? E siamo qui per aiutarti. Se tu sei il babbo, io potrei essere lo zio, no? Anch'io. Tutti zii della Traviata. Tutti pezzi dello stesso ingranaggio. Tutti pezzi di merda. Vai. Mela, ora io ti chiedo, qui di fronte a testimoni di specchiata virtù ed onestà, sei tu consenziente, convinta e intimamente decisa a interrompere il tuo stato di gravidanza? Lo sei? Lo è. Deve rispondere la gravida. Non ho capito la domanda, ma che voi mi volete fare? Userò parole più semplici. Vuoi tu estirpare dal tuo seno il frutto della colpa? Il marchio della tua lussuria? Ragazzi, ancora una parola e faccio una strage! Alla fine Mela, la figlia del conte, il figlio lo terrà, e il Mascetti in un impeto di orgoglio dirà: sarà un Mascetti, e gli darà addirittura il suo nome, Raffaello. E dopo la giovinezza a dilapidare un patrimonio, la mezza età vissuta scherzando sulle sue tragedie, arriva la terza stagione della vita del Mascetti e inizia con un malanno grave. Litiga con gli amici, viene colpito da un ictus che lo lascia in una sedia a rotelle. Nel frattempo rimane anche vedovo, è ancora più solo di prima. Certo, agli amici accanto che affrontano la vecchiaia replicando gli scherzi e le zingarate, però la realtà rimane dura, terribile. Oh, è inutile che guardi con quell'aria lì. È la più bella casa di riposo di Firenze, è costo un occhio della testa. E va bene, il conte Mascetti finisce i suoi giorni in un ospizio. A meno che ci abbiate ripensato. No, dico un briciolo di rimorso. Poina di vergogna. No, eh? No. Esatto. Cosa mi dovevo aspettare da te? Ma almeno te, Melandri. Io e te si stava bene insieme. Ti tenevo compagnia. Anche troppo. Sei solo. Ti riempivo la casa. Di puttane. E mi toccava pagarle a me. No, non guardarmi. Dove ti metto a dormire? Nel bar. Ed io allora? Nella camera mortuaria della mia clinica? Mascetti, tutto quello che si poteva fare si è fatto. Ok. Va bene così. Siete dei mostri di egoismo, ma vi ringrazio lo stesso. Ma non credo che tu ci ringrazi, si paga tutto noi. Ti sei comprato una carrozzina che costa più di un Formula 1. Delicato, fine. Sempre signore, eh? Però Mascetti ha mille risorse, impiega poco tempo a far diventare Villa Serena, che è la casa di riposo dove è stato piazzato dagli amici, una specie di parco giochi, scherzi agli anziani ospiti, super cazzo alle suore che gestiscono la villa, insomma sfodera tutto il suo repertorio. E mentre il conte sta trovando un suo equilibrio, Melandri deve anche lui fare i conti col tempo che passa, insomma. Pochi mesi dopo l'ingresso di Raffaello, anche lui lo raggiunge a Villa Serena. Era da un po' che avevo fatto domanda. Per venire qui? Si è liberata questa stanza e mi sono deciso. Oh, scusa, perché non me l'hai detto prima? Volevo farti una sorpresa. Eh sì, a chi lo racconti? La verità è che ti vergognavi a dirlo. Già. Ci sono passato anch'io, sai. Sì, ma io non ci volevo venire. Perché io sì. Ma fuori non sapevo che fare tutto il giorno. Mi rompevo i coglioni. Sarà la vecchiaia. Ah, no, no. La vecchiaia è quando si comincia a rompere i coglioni agli altri. Se è per quello, te li hai rotti a tutti anche da ragazzo, eh? Ma perché? Te ti senti vecchio? Ma neanche per idea. Io mi sento come prima, anzi, meglio. Però, eccoci qua. Insomma, piano piano il gruppo comincia a ricomporsi attorno al Mascetti, perché dopo il Melandri si convince anche il Necchi, che vende il bar, che trascina con sé la moglie nella casa di riposo. Manca solo il Sassaroli, che è granitico, però lui vuole rimanere in giro, fare la bella vita e godersi gli ultimi anni. Naturalmente Mascetti, Melandri e Necchi non impiegano molto tempo a mettersi nei guai, ne combinano di tutti i colori, finte messe nere per un vecchietto che hanno convinto a stringere un patto col diavolo per 100 anni di giovinezza, un duello con un ex militare, intrecci amorosi con una donna particolarmente frizzante nonostante l'età, di cui Melandri si è innamorato, come Melandri era quello che si innamorava. Mascetti si porta a letto questa giusto per aprire gli occhi all'amico, insomma un genio. Gesto di carineria, no? Silenzio! Silenzio! Questa donna è la più gran puttana di tutta la storia millenaria del meretricio. Messalina e Taide sono due dilettanti davanti a questa troiona. In quanto a te, ti dico una cosa sola. Una cosa sola, ti dico. Grazie, amico mio! E alla fine, contro il parere della direzione, gli amici organizzano un viaggio per gli ospiti della casa di riposo. Naturalmente invitano il Sassaroli, vanno al Polo Nord e al loro ritorno trovano una lettera, perché il vaso è colmo, cioè la proprietà lì è caccia da Villa Serena. Scatta una rivolta cappeggiata dai tre amici, che si conclude con la cacciata dell'odiata direttrice, con la vendita della casa di riposo a un nuovo proprietario. Signori, sono il professor Sassaroli, ex medico chirurgo di chiara fama. Essendomi accorto in tempo di essere rincoglionito, più o meno come lor signori, ho deciso di alienare la clinica di mia proprietà ed ho acquistato questa ignobile baracca, di cui sono quindi il nuovo proprietario, nonché direttore. Molte cose devono cambiare qui dentro e sarò inflessibile. Intanto la chiave del portone a tutti, ma a condizione che nessuno ritorni prima delle 3 di notte. Divieto di ubriacarsi meno di 3 volte alla settimana. Divieto di cessare gli schiamazzi notturni prima dell'alba. L'assistenza ai clienti sarà affidata a giovani ed esperte infermiere, con totale esclusione di monache. La signorina Verusca, mio braccio destro. Quella che gli fa le seghe. Ah, la signorina Marie, mio braccio sinistro. Perché è mancina? Non sappiamo cosa accade al conte Mascetti negli ultimi anni della sua vita, non conosciamo la data della sua morte, neanche le circostanze, e preferiamo lasciare le cose così. Deve essere un happy ending. A pensarci bene, non si può immaginare niente di meglio per la propria vecchiaia che passarla con i vecchi amici, quelli di sempre, cercando di sconfiggere la noia, i malanni, la vecchiaia stessa, cercando forse anche di sconfiggere la morte. E se volete mandare i vostri commenti come fosse Antane per due di brematurata col Tarapio Tapioco di prossima puntata. Insomma, se volete, sapete dove trovarmi con Scappellamento a destra. A domani. Il Falco e il Gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.